gli occhi. Rubo anima e voce agli specchi e un lampo subito lo accecò. Correndo a perdifiato s'avanza. Okay. fuoco, lo stesso fuoco che altrui non può vedere.